specchio negli occhi suoi. Un angelo blu vola in cielo, un angelo blu che se fischio torna giù. Un angelo blu e lei lo sa. Un angelo blu